in primo piano. Doverosamente, però, l'apertura è dedicata davvero ai titoli, ai tanti commenti, alle paginate che trovate sulle elezioni. Allora, come commentano i giornali? Veniamo innanzitutto ai titoli. Il Sole 24 Ore, bene la maggioranza, la Lega vola. Per il Corriere vincono Berlusconi e la Lega. Per Repubblica la destra vince sul carro di Bossi. A proposito del carro di Bossi, vince nettamente come vignetta del giorno, che poi è la prima pagina del Manifesto, il carroccio del vincitore. C'è Umberto Bossi sul carro che trionfa e c'è Berlusconi legato a un palo sul quale svetta il vessillo della Lega. Vauro la vede così, insomma, una Lega trionfante che ora in qualche modo tiene in ostaggio Berlusconi. Per gli altri titoli vediamo, c'è il giornale, Berlusconi e Bossi volano, Libero, che goduria, dato per morto il centrodestra vince. Per l'Unità invece, un paese stanco, il trionfo del non voto. Vabbè, il trionfo di Vendola in Puglia che salva il centro-sinistra e Berlusconi ostaggio di Bossi. Boom della Lega, Piemonte a cota, questa la Stampa, mentre per il Fatto Quotidiano Bossi, Vendola, astenuti. Questi sarebbero i tre, come dire, vincitori delle regionali per il Fatto, i tre elementi principali, anche se ho davanti a me il titolo di prima pagina della Padania, che oggi è da monitorare più degli altri giorni. Tsunami padano, ci sono Bossi al centro e Cota e Zaia che si abbracciano, vale a dire il leader della Lega e il vincitore Zaia del Veneto e Cota del Piemonte, in un testa a testa, dopo un testa a testa serrato con Mercedes Bresso. Allora vediamo qualche commento dei tanti che trovate. Stefano Folli in prima pagina del Sole 24 Ore, diciamo che tutti più o meno, sebbene giustamente il Secolo d'Italia fa notare che, e come ha detto il nostro direttore nel GR24, tutti dicono di avere vinto, ma questo è un vezzo italiano. In realtà chi ha vinto certamente, chi ha trionfato è la Lega, chi ha vinto sicuramente anche il centrodestra con Berlusconi, insomma con le sette regioni a sei. Stefano Folli, dopo due anni di legislatura e con una crisi economica molto seria tra le mani, nessuno si sarebbe meravigliato se Silvio Berlusconi avesse perso le elezioni regionali. Altrove in Europa accade così. Viceversa, il Presidente del Consiglio si è destreggiato con la consueta spregiudicatezza in una campagna elettorale pessima nei toni e nei contenuti ed è riuscito perfino a evitare la trappola di un'astensione che ha raggiunto livelli senza precedenti per la tradizione italiana. Alla resa dei conti, il Popolo della Libertà esce dalle urne con un'affermazione evidente. Ed è lo stesso che, sostanzialmente senza troppi giri di parole, anche per esempio Massimo Giannini scrive su Repubblica. Non servono i tortuosi giri di parole in uso nella Prima Repubblica, scrive Giannini. Appannato dagli scandali privati, ossessionato dai guai giudiziari, logorato da due anni di non governo del paese, Silvio Berlusconi è riuscito in qualche modo a vincere anche queste regionali. Lo ha fatto nell'unico modo che conosce, dall'epifanica discesa in campo nel 94, cioè trasformando la contesa elettorale in un altro esiziale referendum sulla sua persona. Lo aveva detto lui stesso alla vigilia di un test di medio termine al quale si avvicinava con una ragionevole preoccupazione: il voto regionale è politico. Ha avuto ragione lui. Insomma, così anche sulla prima pagina della Stampa, Federico Geremicca, Berlusconi batte il non voto, ovviamente trionfali anche a destra, Maurizio Belpietro, appunto, che goduria, se era un referendum su Berlusconi, come senza infingimenti ha titolato il giornale il subcomandante Marco Travaglio, si deve concludere che il Cavaliere lo ha vinto e non di poco. I commenti invece dei giornali di sinistra, cito Concita De Gregorio sull'Unità, il direttore dell'Unità, un voto di rabbia. Questo è il titolo dell'editoriale. del direttore dell'unità, la giornata del tempo sospeso dice due cose chiarissime: che l'Italia è stanca, stanchissima e rabbiosa. La stanchezza e la rabbia sono i sentimenti che hanno animato i vincitori, i primi quelli che non sono andati a votare, uno su tre, una percentuale da malato grave. La democrazia italiana deve essere curata, ha la febbre alta. Gli italiani stanchi dei pasticci, delle buche, delle toppe, delle troppe parole indecifrabili, sono rimasti a casa. Quelli che hanno votato erano in maggioranza animati dalla rabbia. Hanno vinto i partiti con la voce roca e la schiuma alla bocca, la Lega a destra un trionfo assoluto, il neonato partito di Beppe Grillo, che con una percentuale dal 3 al 7%, conferma quel che sappiamo, urlare tutti ladri, tutti in galera, è un abito ampio e comodo, una taglia unica che si adatta a tutte le taglie e che è persino sostenuto da ragioni valide, documentate, condivisibili. Insomma, per Concita De Gregorio è stato un voto di stanchezza e di rabbia. Oh, che dire, davvero io vorrei dire non tantissimo di più, perché poi ci concentriamo in un lungo speciale dalle 8.30. Comunque pare da Libero che Berlusconi abbia detto così: ho fatto un capolavoro. A meno cita Salvatore Dama a pagina 6, è tarda sera quando Berlusconi lascia Palazzo Chigi, abbiamo preso in mano una situazione disperata e l'abbiamo raddrizzata in due settimane, anche se ci sarà da analizzare per esempio il fatto che, e Libero lo evidenzia, lo stesso Corriere della Sera mette una frase di Sandro Bondi che dice: non sono molto soddisfatto dal voto, peggio delle europee, perché alle europee il PDL era al 35,26%, ora si attesta attorno al 26,6%. È vero che ha perso molti voti per la mancata presentazione delle liste alla provincia di Roma, ma questo 9% che balla in meno, certo fa pensare che, è vero, ha vinto soprattutto il centro-est nelle regioni per il trionfo della Lega, nel senso che in Piemonte, per esempio, per la prima volta storica c'è una vittoria della Lega, e quindi insomma c'è da analizzare il voto in questo senso. PDL in calo, infatti, evidenzia anche il Corriere della Sera pagina 3 come numero totale di voti, frenata anche dei democratici. Il Carroccio mai così bene, l'UDC è stabile, l'estrema sinistra così come è definita sotto il 3%. Chi invece gongola sicuramente è, vabbè, c'è anche sull'astensionismo, ne parleremo, chi gongola è Beppe Grillo. Beppe Grillo ha portato alcuni candidati, pensate, in Emilia-Romagna al 6,7% il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. In Piemonte al 4,1%, e già si dice che con questo 4,1% ha sottratto voti, secondo le prime analisi, a Mercedes Bresso, e dunque la vittoria, ma poi si vedrà, bisogna bene analizzare. Nel Veneto al 3,2%, certo nelle regionali complessive è all'1,8%, ma si presentava solo in alcune regioni. Davvero un exploit incredibile, in Romagna in Emilia-Romagna al 6,7%. Beppe Grillo parla a pagina 5 della Stampa, fa un'intervista a Ferruccio Sansa. Siamo la Lega del terzo millennio, dice così, non ha più voce dopo 50 incontri. Noi e loro, cioè noi e la Lega, siamo gli unici radicati sul territorio. Anche loro li vedi in giro per i paesi con i loro banchetti, ecco perché poi prendono i voti. Ed ecco poi Beppe Grillo dice: ma vi rendete conto, in Emilia siamo quasi al 7% senza le TV, i giornali. Casini, che ogni giorno in TV ha preso poco più della metà. In Piemonte siamo al 4%, vedrete che è solo l'inizio. Poi Beppe Grillo si adombra, chi dice che è un voto di protesta si arrabbia tantissimo, ma che voto di protesta, non diciamo stupidate. Se il centro-sinistra perde, poi noi non c'entriamo, non scarichiamo le colpe sugli altri. Andate a vedere cosa dice la Bresso sulla TAV. Noi ci battiamo perché l'acqua resti pubblica, l'opzione zero per il cemento, gli inceneritori. Queste sono le cose che cambiano la vita della gente. Il prossimo passo sono le comunali e poi le politiche, ma Grillo conferma e dice: non mi candido assolutamente, i ragazzi del movimento ne sanno molto più di noi. Insomma, un Beppe Grillo che è sicuramente entusiasta di questa vittoria elettorale. Vabbè, lasciamo davvero la politica, perché poi, ripeto, alle 8:30 ne parleremo approfonditamente con uno speciale. Dalle 8:30, dopo il GR24, andremo avanti fino alle 11:00. Ci sarà con noi anche Oscar Giannino. Ovviamente ci sarà la possibilità anche di telefonare da parte vostra e intervenire. Lasciamo la politica con le regionali, ma non lasciamo la politica, nel senso che ieri Repubblica dava questa notizia che rischia davvero di creare e ha creato molto scompiglio, molte reazioni in Sicilia, vale a dire la notizia secondo la quale un rapporto riservato per il momento, ma la procura di Catania avrebbe messo sotto indagine il presidente della regione Lombardo insieme al fratello e ad altri indagati, ma questi sono sarebbero i due più importanti, per concorso esterno in associazione mafiosa. Insomma, un reato molto dibattuto, ma molto grave se confermato. Vale a dire, avrebbero chiesto voti alla mafia in cambio ovviamente di favori. Mafia Lombardo respinge le accuse, lo leggo da Repubblica perché c'è su tutti i giornali, ma Repubblica ieri ha fatto lo scoop di evidenziare questa notizia. Lombardo reagisce: non mi servono i voti di Cosa Nostra, non li cerco, sarei non solo un delinquente ma anche uno stupido. Vuole querelare tutti, ha ricevuto ieri la solidarietà della sua giunta, una giunta nella quale tra l'altro ci sono dei magistrati, un magistrato come Massimo Russo, una persona come Caterina Chinnici, vale a dire figlia del magistrato Rocco Chinnici, fatto saltare in aria dalla mafia. C'è anche nella giunta Marco Venturi, vale a dire l'espressione della Confindustria siciliana schierata nella lotta al racket. Ebbene, da questa giunta, convocata ieri in maniera straordinaria, Lombardo ha incassato una solidarietà. C'è anche un'intervista da parte di Repubblica proprio all'ex magistrato Massimo Russo, che ora fa l'assessore, si occupa della sanità, un tema molto caldo in Sicilia, ma non solo. Ebbene, da ex magistrato, dice Russo, mi attengo alle carte. Per ora c'è solo un rapporto dei carabinieri di cui poco si sa e un'evidente fuga di notizie. Mi lasci essere garantista. Vedremo se gli accertamenti che farà la magistratura porteranno a qualche elemento concreto. Se così sarà, Lombardo per primo ne trarrà le conseguenze. Per ora a me basta lo straordinario lavoro che il governatore sta facendo per rompere interessi illeciti e mafiosi nel campo della sanità e dello smaltimento dei rifiuti. Insomma, lo difende Russo, dice sono garantista, anche se Repubblica svela poi retroscena dell'inchiesta, voto di scambio, appalti pilotati, ecco i 2 anni di indagine molto segreti, con prove e riscontri, intercettazioni telefoniche, ambientali, fotografie che sarebbero agli atti, un'indagine coordinata dal PM Giuseppe Gennaro e da altri sostituti che andrebbe avanti da 2 anni per cercare prove e riscontri alle accuse di collaboratori di giustizia nei confronti dei fratelli Lombardo. Ecco qui i pentiti che hanno parlato. Tra l'altro pare, secondo un quotidiano, che Lombardo partirà all'attacco dicendo ora io querelo il pentito che mi ha tirato in ballo. Torna in qualche modo la politica e torna in qualche modo le regionali, perché oggi ci sono nuovi sviluppi sui giornali sul caso Marrazzo. La leggo dal Corriere: Marrazzo e i carabinieri sapevano degli incontri dal 2008. Esiste una relazione di servizio sulle frequentazioni del governatore del Lazio Marrazzo con transessuali. Fu redatta dal comandante della compagnia dei carabinieri Trionfale nel 2008, dunque un anno prima che il presidente venisse sorpreso nell'appartamento di Via Gradoli, filmato e ricattato. Lo scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere. Questa sarebbe la prova, insomma, di un vero e proprio complotto. Eccolo qui: attraverso l'esame dei tabulati si scopre che già il 26 giugno Marrazzo ha un incontro con Natalì. Lei avvisa Cafasso, vale a dire quel pusher poi trovato morto e secondo gli inquirenti è stato ucciso. Cafasso contatta Testini, che è il maresciallo accusato di avere ucciso Cafasso con una partita di droga. Gli chiede della droga. Una settimana dopo, nuovo appuntamento. In realtà il governatore è già stato con un altro viado, Paloma. Poi chiama Natalì, chiede cocaina, ecco il giro di telefonate, il transessuale chiama Cafasso che dice non avere droga, e il pusher chiama Tagliente e Simeone, cioè i due carabinieri. Nathalie chiama un altro spacciatore. Insomma, una rete davvero di controllo. Il sospetto, scrive Fiorenza Sarzanini, è che quando c'è stata l'irruzione fosse tutto preordinato, cioè un complottone già previsto, perché tutti sapevano in qualche modo, le persone coinvolte, i movimenti di Marrazzo e i suoi appuntamenti con i transessuali. C'è moltissimo sui giornali di quella tragedia che è successa ieri a Mosca, con due esplosioni avvenute nella metropolitana. Due esplosioni che sono addebitate, secondo i primi analisti, a un attacco di due donne, due attentatrici kamikaze. Si vede subito, lo sguardo è puntato al terrorismo del Caucaso del Nord, vale a dire la situazione cecena. Terrore nel cuore di Mosca, pagina 15 del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore vi dedica ben due pagine. Antonella Scott, che prima insomma fa la cronaca insomma di quello che è successo nel metro, in queste due esplosioni, appunto due attentatrici kamikaze che emergerebbero nella figura di due donne caucasiche ritrovate tra le vittime, e poi un'analisi di quello che potrebbe essere, di chi potrebbe essere il mandante. La guerra dell'emiro Umarov, con una lucidità agghiacciante, scrive Antonella Scott. Doku Umarov, colui che si fa chiamare emiro del Caucaso, aveva già scandito il 14 febbraio scorso quanto sarebbe successo. I suoi mujahideen, aveva avvertito in un video, sarebbero tornati a colpire le città della Russia oltre i confini del Caucaso. I russi, minacciava Umarov, non capiscono che la guerra oggi sta arrivando nelle loro strade, nelle loro case. Non pensano che la guerra sta tornando. Le vedono in televisione da qualche parte lontano nel Caucaso e pensano che non li riguarda. Ecco allora che Umarov avrebbe portato avanti, secondo le prime analisi, ovviamente non ci sono state rivendicazioni, l'attacco tramite quelli che si chiamano le Shahidki, cioè le donne kamikaze pronte a immolarsi, in genere donne che negli anni della guerra hanno subito violenze, hanno visto rapire, torturare, morire gli uomini della propria famiglia. Una scia di sangue che non si arresta, scrive Antonella Scott, perché un anno fa il Cremlino ha proclamato la conclusione dell'operazione antiterrorismo. Dunque ci si concentra insomma su quello che è successo nel Caucaso. Questa sarebbe la prima e la valida ragione per cui Putin ha detto: i terroristi li andremo a stanare insomma nel Caucaso, e lì tutti guardano sostanzialmente. Donne kamikaze in metropolitana, strage a Mosca, 38 morti, 100 feriti. C'è un commento molto interessante anche di Sandro Viola su Repubblica. Davvero questa è la notizia sicuramente del giorno per quel che riguarda le notizie degli esteri. Io vorrei tornare però in Italia, perché in Italia c'è un fatto di cronaca che è stato affrontato da tutti i giornali, un fatto di cronaca davvero, davvero incredibile. Lo leggete su tutti i giornali: abusano della compagna di classe, due arresti. Più che abusi, qualcuno ha parlato di vero e proprio stupro in classe. Uno stupro in classe, eppure il professore che era presente non si è accorto di nulla. È successo in una scuola media di Salò. Perché? Perché è avvenuta la violenza durante una lezione di francese. Ridevano quasi tutti, lo leggo da Repubblica, ma c'è ovunque, ridevano quasi tutti, intorno all'ultima fila della seconda C della media D'Annunzio di Salò. Collina con visto lago, quarta ora, francese, il professore era Nicola Dusi. In fondo c'è Trambusto, lui va avanti a interrogare delle persone. Intorno al banco di Farida, 12 anni, origini magrebine, famiglia d'adozione, ci sono un quindicenne, un quattordicenne e un tredicenne, tutti ripetenti. Il più grande ha il pene fuori dalla patta. Mette un paio di volte la mano sulla nuca dell'adolescente davanti ai suoi rifiuti. Gli altri due sghignazzano, il resto della classe a turno va a dare un'occhiata. Loro dicono: fatevi i fatti vostri, sono cose da grandi. Poi suona la campana, finisce la lezione. Se ne accorge, o viene a saperlo la professoressa di italiano, che il lunedì dopo dà un tema. E in questo tema vengono fuori sostanzialmente i racconti espliciti di quello che è successo, per nulla pentiti, dei ragazzi. Insomma, di questa di questa vera e propria violenza. Una vicenda incredibile, tra l'altro, perché lo cito da Repubblica? Perché Repubblica fa parlare la dirigente scolastica della scuola media, Vittoria Roghi. Sentite che cosa dice: per loro il sesso è una merce di scambio, i ragazzi vivono come nel Grande Fratello. Ho visto le agenzie, ho visto quello che ha detto il ministro Gelmini, avrei reagito anch'io così leggendo di uno stupro di gruppo in classe. Invece non è andata così. E com'è andata allora, professoressa? Da tempo Farida, questa ragazza dodicenne, che è già donna nel corpo ma con la testa di una bimba, chiedeva a un compagno di classe di intercedere con un ragazzo della scuola di cui è innamorata. Gli aveva offerto già 20 euro. Stavolta, durante l'ora di francese, il ragazzo le ha risposto: «Va bene, ma mi fai toccare le tette». Si è inserito un altro ragazzo più grande e ha alzato il tiro proponendo di leccarlo lì. Tira e molla. No a lui. A lui no, piuttosto a Gino. Poi un astuccio che viene buttato per terra, uno che si cala le braghe, come un gioco per loro, finché non è suonata la campana. Scusi, ma c'era il professore in classe? Sì, stava interrogando tre ragazze, ma quel professore è per un approccio amicale. Con lui ci si può alzare in classe, cambiarsi di posto. Comunque l'ho sospeso, senza incarico, 10 giorni senza stipendio. Le sembra poco? Insomma, non è che minimizzi la preside Vittoria Roghi, però dice: non è stato uno stupro di gruppo, è stato quasi un gioco in cui il sesso viene così interpretato in maniera errata, certo con un messaggio sbagliato, ma una merce di scambio. Davvero una vicenda per me incredibile, invece, che si è verificata a Salò. Il ministro Gelmini si è detta esterrefatta, tutti i giornali ne parlano, c'è chi appunto parla di gioco come la preside, la dirigente scolastica, c'è chi invece dice no, è stata una vera e propria violenza. Cito in conclusione quello che c'è sul Corriere della Sera, una vicenda incredibile, la leggete a pagina 34, io già sorrido: lancio di piatti e pugni nel locale. Fuxas, vale a dire l'architetto Fuxas, insulta Bertolaso, rissa tra clienti al ristorante. Cosa è successo a Roma? Ce l'ha solo il Corriere della Sera. Guido Bertolaso arriva nel ristorante, in un ristorante a Roma. Arriva con un po' di persone, in questo ristorante è seduto l'architetto Fuxas, che appena vede entrare Bertolaso, Fuxas, fisico imperioso, testa pelata, mascella volitiva, inizia a dire: dove deve sedere quel ladro pezzo di merda? Ovviamente riferito a Bertolaso. È l'inizio della fine. Il mormorio si alza di nuovo, viene interrotto da un signore, non Bertolaso, da un signore che si alza e lascia il tavolo con la moglie e i bambini. Qui ci sono dei ragazzini, moderiamo i termini. Quell'uomo, riferito a Bertolaso, non è un ladro, non ti permettere di insultarlo. A quel punto Fuxas impugna una formaggera, si legge nel verbale di polizia, la tira contro il difensore di Bertolaso, del capo della protezione civile, che nel frattempo è rimasta al suo tavolo senza capire esattamente cosa stesse accadendo. La formaggera fa il suo percorso aereo di guerra, finisce in terra senza colpire nessuno. A quel punto volano piatti, cadono sedie, la gente urla, peggio di una rapina. C'è chi porta via i bambini, chi li nasconde dietro un angolo, e la moglie di Fuxas dice: Bertolaso si è rannicchiato sotto il tavolo, non capisco come certa gente abbia il coraggio di andare in giro. E poi la moglie di Fuxas dice: ma ci ha aggredito questo difensore di Bertolaso, è un bullo che ha preso le sue difese aggredendoci proprio come un teppista. Insomma, una provocazione e noi ci siamo difesi. Sta di fatto che è finita a lanci di piatti tra Fuxas e un difensore del capo della protezione civile. Vabbè, ci fermiamo qui.